È stato promosso dal Centro delle Culture, dal Vicolo, che è il periodico umanista di Civitavecchia, dal Partito Umanista, e da Frix, il giornale multietnico di Trieste, del Movimento Umanista. L'evento sta riscuotendo molto successo in fase di preparazione, in quanto ci sono ormai 35 associazioni che hanno aderito e si sono animate per farlo diventare realtà. E associazioni di volontariato che si battono per i diritti umani. L'evento avrà come fulcro l'Europa delle culture, l'Europa della diversità e l'Europa solidale. Quindi tutto ciò che promuoverà la non violenza e promuoverà la non discriminazione sarà ben accetto in questa giornata. Vogliamo sottolineare che appunto questo evento verrà e viene realizzato tra il 25 maggio e il 10 giugno in numerose città che sono contenute in un bacino che parte dall'Oceano Atlantico al Mar Caspio. Possiamo nominare ad esempio Milano, Roma, Firenze, Torino, Palermo, Madrid, Parigi, Atene, Monaco, Praga, Zurigo, Lisbona, Budapest, Istanbul e anche la vicina Capodistria. Per quanto riguarda più nello specifico le attività che verranno realizzate, possiamo dire che il calendario è molto fitto. Ci saranno numerose associazioni che offriranno, tra virgolette, quello che sanno fare. Quindi ci saranno dall'associazione che rappresenterà uno spettacolo sull'esperienza di espressione corporea, agli spettacoli di capoeira piuttosto che dei tamburi o piuttosto che delle danze africane. La manifestazione si terrà tra Piazza Barbacana e l'Androna degli Orti. Ci saranno numerose associazioni che daranno la possibilità alle persone che passeranno di là di essere informate sulle varie iniziative che vengono promosse dalle associazioni stesse. E poi ci sarà un appuntamento che è chiamato Caffè La Paz. E in questo appuntamento sarà una specie di tavola rotonda, di momento di incontro dove ognuno potrà esprimere la propria esperienza riguardo al tema della diversità. Quindi l'idea è quella di far interagire il pubblico che interverrà con le varie esibizioni o comunque con il tema generale della giornata.